Con Claudio Guerrieri, direttore della quinta edizione del Live Cinema Festival a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 20 al 23 settembre. Claudio, ben trovato. Ciao a tutti. Descrivici il festival. Siamo quest'anno molto felici di essere ospitati al Palazzo delle Esposizioni, dato che 4 anni fa questo festival è nato nel teatro Quarticciolo, quindi in periferia, e in 4 anni siamo appunto felici di essere arrivati appunto a proporre il festival in uno dei importanti luoghi museali della capitale. Il festival appunto sarà di 4 giorni, 4 serate, dove si potrà assistere a 2 live performance a sera con un cast artistico internazionale molto importante, che appunto abbiamo artisti da 11 paesi, dato che fin dalla nascita il Cinema Festival fa parte anche di un network internazionale legato all'audiovisual performing arts, e quindi siamo riusciti quest'anno ad invitare nomi anche molto importanti, e cosa che ci rende molto orgogliosi, che tutti gli artisti invitati quest'anno, con nostra sorpresa, si presentano tutti con premiere, cioè con lavori mai visti prima in assoluto per la prima volta in Italia. E questo per il nostro festival può che essere già un piccolo successo, perché difficilmente credo ripetibile una cosa del genere. Ripercorriamo un po' le tappe, come era nato tutto l'idea iniziale? L'idea iniziale nasce con un mio amico e collega Gianluca Del Goppo, con cui condivido progetti legati all'audiovisual da più di 20 anni. Ed appunto questa è una nuova. Per live cinema, questa parola cinema magari a volte viene un po' lasciare fraintendere che si tratti di film, ma non è così. E infatti è una nuova tecnica sperimentale legato al video performativo, dove c'è una narrazione, ma non come nei film. Una narrazione che non è lineare, quindi avremo queste performance. Molto interessante vedere il lavoro che gli artisti eseguono sul palco con strumentazioni di ogni tipo, dall'analogico al digitale. Un altro aspetto molto importante quest'anno è questa doppia proiezione su uno screen, una parete di 18 metri per 5, dove il pubblico sarà immerso. Senti, come a proposito della doppia proiezione, ecco, come saranno strutturate le 4 giornate? Allora, in 4 giornate avremo 2 performance a sera, precedute da degli screenings nella sala dell'auditorium del Palazzo d'Esposizione. Screenings dove si potrà vedere delle interviste, dei making of di artisti delle passate edizioni che racconteranno i loro lavori, appunto, il loro modo di lavorare. Poi dalle 10 a mezzanotte si alterneranno 2 performance di live cinema a sera con un cast artistico internazionale che coinvolge 11 nazioni. Iniziamo giovedì con The Light Surgeons, uno degli artisti, del gruppo pionieri di questa pionieri del live cinema, fino ad arrivare a domenica 23 con un'altra performance molto interessante, innovativa da vedere, di Armand Dix, degli olandesi Armand Dix e Ray Collins. Ma ogni sera, insomma, ci saranno artisti che vale la pena appunto venire a vedere, perché presenteranno tutti opere mai viste prima, quindi che dire, solo vedendole si può descrivere quello che sarà. Sì. Senti Claudio, quindi nel complesso quanti saranno gli eventi? Gli eventi sono 8 in totale, 8 live performance, più Ok. gli screening ogni giorno, anche quelli, e a completare il programma c'è anche un workshop gratuito sul digital storytelling, che ogni pomeriggio dalle 5 alle 7 si terrà nella sala dell'auditorio del Palazzo delle Esposizioni. Quindi chi vuole ancora partecipare può inviare una email a info@livecinemafestival.com. Il workshop è gratuito, come anche tutto il festival. L'ingresso, appunto, è gratuito, anche se abbiamo invitato tutti a iscriversi e prenotare un ticket, perché si prevede per la capienza limitata su tutte le serate, si prevede sold out, quindi chi prima arriva, diciamo così, è avvantaggiato. Allora, in chiusura ci dai anche tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, assolutamente. Potete andare a vedere il programma e studiare un po' gli artisti e quello che presenteranno sul sito www.livecinemafestival.com. Perfetto. Allora, ricordiamo la quinta edizione del Live Cinema Festival a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 20 al 23 settembre. Un ringraziamento e un saluto al direttore Claudio Guerrieri. Claudio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, ciao. Ciao.